principale, forse perché la legge è il più forte, no? Io ho più muscoli, se stai zitto, bene, salti il bastone. E questo ragionamento c'è ancora nel subconsciente. Non fa niente, vabbè. Si migliorerà il mondo. Allora, oggi devo raccontarvi qualcosa, così mi ha invitato qua, l'ambiente naturale e lo stile di vita. E la prossima settimana parlare di piante della salute, erbe medicinali, verdure selvatiche, cose di questo genere qua. Allora, io sono autore di questo libro qui e è una cosa che è maturata, ci è voluto presto 3 decenni per arrivare a capire certe cose. Alle volte ho dovuto sbattere la testa contro il muro e lasciar perdere tante abitudini, e quello che è venuto fuori è tutto qua dentro. E qui ho dedicato anche un capitolo che riguarda proprio ambiente naturale, stile di vita e cosa può essere. Allora, oggi viviamo in un mondo moderno, almeno civilizzato si dice, ad ogni modo si vive meglio che 200 anni fa, per capirci, soltanto che i problemi degli uomini sono sempre gli stessi. E niente, vorrei leggere qualcosa che è scritto qui dentro e poi parlarne. E poi un giro di domande. Allora, beh, ad ogni modo, l'ambiente naturale cos'è? La natura dove viviamo? Il pianeta Terra? Ah già, ci sono le immagini da vedere che sono molto interessanti per spiegare meglio il concetto. Questa cosa qui la si ritrova in quegli scritti che sono stati scoperti nel 1945 nelle zone dell'Israele, nelle anfore di legno, e sono scritti che hanno, dicono, oltre 2000 anni, 2500, forse 3000 anni. E la mentalità di allora aveva già scoperto molte cose. Se avete letto è tutto chiaro. Allora provo ad andare avanti un pochettino, se faccio giusto così. Sì. E la Terra è la nostra madre primordiale che ci permette di vivere, e qui dobbiamo vedere di come facciamo le cose. Io ho avuto la possibilità di vivere, ma diciamo così, sempre fuori in natura, da bambino. Ho visto com'era la fine degli anni 50 ancora lo stile di vita, quando la gente viveva ancora nelle campagne, diciamo, e poi c'è stato improvvisamente il boom degli anni 60, dove tutti hanno abbandonato le campagne per andare in città. E adesso sembra che le città si stiano riempiendo sempre di più e la vita stia diventando sempre più innaturale. Quello che succederà nei prossimi anni bisogna vedere. La crisi che abbiamo non è ancora crisi, è soltanto forse l'inizio della crisi. Quella avverrà nei prossimi anni. Adesso è soltanto una cosa artificiale costruita da chi ha i soldi, da chi ha il potere al momento. Ok, e questo è il pianeta Terra, e se noi viviamo secondo queste regole stiamo bene. E cosa fare? Beh, quello è di per sé è molto semplice. Questo è il sole che tutte le mattine si alza e ci permette di vivere. Il dio sole, nell'antichità il dio sole è sempre stato, diciamo, un dio nel vero senso della parola, che ci dona la vita. Tutte le culture l'hanno sempre avuto, quella cristiana ha preso il sole, ha detto che si chiama Dio, un Dio unico, ma in fin dei conti è sempre la stessa cosa. E poi dall'unione del Dio sole con la madre terra, che abbiamo visto prima, è nata la vita. E quello che noi consideriamo vita qua sul pianeta Terra è dovuto a questo fatto qua. Tot milioni di anni fa, o centinaia di milioni di anni fa, per essere più esatti, è successo questo. Grazie alla clorofilla è stato possibile ai primi esseri viventi, le piante nelle loro diverse forme, di assorbire l'energia della luce e di costruire qualcosa che vive, che si produce, si moltiplica autonomamente. E grazie a queste prime piante esistiamo con noi oggi. Praticamente sono i nostri fratelli minori. E nella pianta si trova anche tutta l'energia dello spettro solare, non soltanto sostanze chimiche, che serve un po' riduttivo. E noi siamo collegati alla madre terra. Questo espresso in questo disegnetto qua lo si può capire. Senza di lei non possiamo esistere. e cosa ci permette di vivere e stare bene. Allora, posso leggere qualcosa del libro? Sì. Che riguarda un po' questa tematica, fra le tante? Allora, l'ambiente naturale è la tua vera casa, il pianeta Terra è la tua astronave su cui viaggi e trascorri la vita. La natura ti offre tutto ciò gratuitamente. L'ambiente in cui vivi condiziona la tua esistenza e il tuo benessere. Tante volte è successo nella mia vita di sentirmi pervaso improvvisamente da una sensazione di vitalità e benessere trovandomi in riva al mare o sulla cima di una montagna, in una bella giornata di sole, nei pressi di una cascata, di un torrente, nei boschi dove spirava una leggera brezza, oppure respirando l'aria dopo un temporale. È la poesia della natura, ora è la prosa della vita. Ci si trova a suo agio perché? Vorrei farvi una domanda. Nelle città, oppure nei boschi, nelle campagne, dove c'è più ossigeno? Una domanda semplicissima. Logica la risposta. Nelle campagne, nei boschi? Tutti d'accordo? Sì? Qualcuno vede le cose in modo diverso? No. Allora avete sbagliato tutti. Sia nelle campagne che in città la quantità di ossigeno è sempre la stessa, quel 21%, 23%. Eh? Non cambia niente, è sempre uguale, sempre uguale. Ok, quello che cambia è un qualcos'altro, quello che leggo adesso. Allora, pagina 159. Sono situazioni naturali dove l'aria è pura e la ionizzazione è più elevata. Praticamente succede che l'aria si ionizza. È un modo in più per capire come siamo collegati con la natura. Processo durante il quale gli atomi e le molecole perdono o acquistano elettroni, trasformandosi così in ioni a carica negativa o positiva. Le cause naturali sono molteplici. Radiazioni elettromagnetiche del Sole, raggi cosmici, grandi masse d'acqua in movimento o in corso di evaporazione, emanazioni radioattive naturali del suolo, il vento che smuove gli alberi, i rami degli alberi, i fulmini, eccetera. Queste condizioni favoriscono la formazione di tanti piccoli ioni prevalentemente a carica negativa e biologicamente attivi. Si chiamano ioni di Langevin. Purtroppo nell'aria delle città e nelle zone industrializzate, oltre ai componenti naturali, si trova anche una grande massa di sostanze inquinanti che tutti noi respiriamo. Sono proprio questi agenti inquinanti che catturano i piccoli ioni e ci fanno sentire bene. La differenza maggiore tra l'aria dei luoghi aperti e naturali e quelli delle città, contrariamente a quanto si crede, non è la quantità d'ossigeno che è identica, ma nel rapporto tra grandi e piccoli ioni. Praticamente quello che succede, se viviamo in città, è una cosa. Queste particelle di sporco, di smog, quello che c'è, e i muri di cemento, le strade, tutte coperte di sassi, praticamente impediscono la produzione di questi ioni. Se siamo dopo un temporale, tutti dicono per esempio che l'aria è diversa, si respira meglio, ma non è perché c'è più ossigeno o perché l'aria è più pulita, un pochettino si ripulisce, ma la cosa principale, grazie a queste scariche elettriche, l'aria si ionizza. E questi elettroni che vengono liberati, se l'ambiente è puro, non inquinato, questi ioni in quantità enorme ci attraversano, attraversano proprio il corpo. Sono energia di luce, chiamarla così come la si vuol vedere, e questo ricarica le nostre batterie, nel vero senso della parola, e stiamo meglio. È una cosa necessaria, per esempio a casa di solito, quando sono le porte e le finestre chiuse, ogni tanto viene voglia di aprirle, lo si fa spontaneamente. Perché? Non è perché manchi ossigeno, questa è una cosa del tutto secondaria, manca l'aria, cioè l'aria ionizzata, quel rapporto diretto che noi dovremmo avere sempre con la natura. Se viene a mancare un qualcosa che col tempo non è che ci faccia ammalare, perché la malattia o disturbi vengono per tanti fattori diversi, però riduce il nostro sistema immunitario, ci rende più deboli e più sensibili, più nervosi e alla fine problemi di salute. Questa è l'ionizzazione dell'aria che ha a che fare con noi siamo collegati con l'ambiente naturale. Cosa succede se l'aria è ben ionizzata, quindi dopo temporali o vicino a delle cascate o dei torrenti dove l'acqua si muove, o anche al mare quando ci sono queste onde, o anche nel bosco quando i rami si muovono. Di più non serve che sia un vento forte, basta un venticello leggero. Cosa succede? Abbiamo un rinforzamento dell'apparato respiratorio e quindi meno asma, bronchite, febbre da fieno, catarro, tosse, sinusite. Effetto rivitalizzante, come il miglioramento e l'accorciamento del tempo di reazione visivo e della reattività muscolare. Rafforzamento del sistema immunitario, con conseguente miglioramento dello stato di salute nelle persone sane e inoltre stimola la guarigione delle persone malate. Aumenta le prestazioni atletiche degli sportivi, effetto rilassante e rassicurante per il corpo e l'anima. Per esempio si riduce il livello ematico di serotonina e così via. Sono tante cose, reazioni chimiche che avvengono nel corpo e vengono prodotti anche altri ormoni. In più la cicatrizzazione e la guarigione delle ferite è migliore e più rapida. Quindi la ionizzazione è una delle possibilità offerte dalla natura per sentirsi bene nel proprio corpo, intensificazione quindi dello stato d'animo. Grazie al rafforzamento del sistema immunitario, al più veloce recupero delle malattie, alla riduzione dello stress, delle depressioni e delle nevrosi. Quindi l'anima può anche ristorarsi. Così funziona. Sembrano cose logiche, però in natura è tutto calcolato fino al minimo dettaglio. Quello che l'uomo, purtroppo, il problema dell'uomo civilizzato moderno, non ha più un rapporto normale con la natura. Ok, vi faccio vedere qualche immagine che può essere interessante. Questo è un ovulo, lo si trova qua e là, la gente, c'è chi li mangia anche crudi. Sì. Basta conoscerli e non confonderli. Questo qui per esempio è un sentiero che si trova verso Renon, no? Se si vede quei verdi di colore diverso, verde scuro, verde chiaro, sembra, diciamo che è un paesaggio armonico, ci fa stare bene. Quello che ci dona la natura è tutto gratuito e qui è un sentiero che ci porta alla meditazione, a rilassarci, ci toglie tutti i problemi. Sono cose che ritroviamo un po' dappertutto, non serve andare in posti particolari, basta fare una gita semplice qua e là e si trova tutto quello che ci serve per stare meglio. Questo qui è soltanto il timo di montagna, si trova bei tappeti così pieni di questi fiori. Questo qui è una zona verso Castelvetere, giù, vicino a Enia, in primavera, quando i prati sono verdi, è uno spettacolo. Qui ci si rilassa, si dimentica i propri pensieri, l'animo può ristorarsi, quello che succede in natura quando vediamo un paesaggio armonico, che non deve essere in un posto dove la gente va a fare le ferie perché dicono che è bello, qualunque posto, basta aprire gli occhi. In questo semplicissimo prato, praticamente se troviamo un posto dove c'è armonia, diciamo che armonia, può essere un bel sasso o qualcosa, cosa succede? Vengono prodotti altri ormoni, sviluppiamo più pensieri positivi e quello che succede, i pensieri da dove vengono? Secondo voi, da dove vengono? Da dove hanno origine pensieri ed emozioni? Da dove arrivano? Dalla testa? Io faccio un ragionamento un po' più profondo, no? Se si va oltre, il corpo umano è solo una macchina, niente di più, niente di meno. È un veicolo. Quindi dietro c'è l'anima, quello che noi siamo realmente. E le emozioni e i pensieri vengono dall'anima. Praticamente il nostro cervello non è altro che come un computer, questo affare qua, che ci deve essere dietro qualcuno, in questo caso sono io qui che schiaccio il pulsante e vi faccio vedere un'altra immagine. Se penso e ho emozioni negative, chiaramente avrò delle reazioni nel mio organismo che andranno in una certa direzione. Se le ho positive, vanno tutte in un'altra direzione. All'altro apparato cosa succede? Il pensiero e le emozioni vanno nel cervello e nella parte antica del cervello, non nella materia grigia che è solo una cosa secondaria, nella parte dove c'è il talamo, ipotalamo, ipofisi, epifisi, quindi nel centro del cervello, lì vengono elaborate le emozioni. Io ce le metto dentro e cosa succede? In base a quello che penso e come reagisco emotivamente, l'ipofisi dà incarico, produce determinati ormoni che istantaneamente fanno lavorare il mio sistema endocrino in un'altra maniera. Quindi sono io stesso che mi creo la salute o la malattia. Quindi il corpo reagisce a queste emozioni e questi pensieri e sono io il maestro che guida tutto il resto. Il corpo di per sé non può decidere niente in quello che succede. Allora, ambiente naturale e stile di vita è tema di oggi, quindi ambiente naturale, questa è la natura. Papaveri sono spettacolari quando fioriscono, a parte poi con i fiori dei papaveri si fa anche la tisana. Quando si vede queste cose ci fanno stare bene. Quindi praticamente tutte le persone nervose, stressate, così via, andassero fuori in natura, dopo poco tempo stress e depressione sparirebbero. Questo è previsto così, è una cosa naturale. Oggi le depressioni, nevrosi e tutto quello che c'è vengono perché le persone non vivono più in modo naturale. Soltanto immaginandosi, se uno deve vivere tutto il giorno seduto davanti a un computer, succede, è normale oggi. O dentro chiuso in una fabbrica, mi chiedo io che senso ha. Si potrebbe forse inventarsi un altro stile vita dove le macchine sono a nostra disposizione per renderci la vita più facile, più semplice e magari dedicarsi ad altre cose. Ad ogni modo anche la scienza più moderna, sociologia, psicologia, medicina, anche sempre di più si sta rendendo conto che siamo costruiti per vivere nella natura, nell'ambiente naturale. Negli anni 60 sono state abbandonate le campagne, allora oltre il 50% della popolazione viveva nelle campagne, attualmente almeno in Alto Adige sì, no, il 3%. La media poi mondiale, se guardiamo coloro che si dedicano all'agricoltura, quindi fanno i prodotti, l'alimentazione che noi abbiamo, su base mondiale siamo sotto il 2%. Tutto il resto della popolazione mondiale fa qualcos'altro. Attualmente è così, fino a che durerà. Questo è un mulino d'acqua, è bello, è qui sopra, verso San Genesio. E questo qua è un bel posto, è proprio spettacolare questo ambiente. Questo lo si vede dalla montagna un po' più in alto e questo è nell'Appennino. Questo si chiama Castelluccio, è un altipiano a 1400 metri di altitudine, sarà lungo 3-4 km e lungo 15-20 più o meno. E qui sono coltivati dappertutto lenticchie, diversi tipi di cereali e quello che vedete blu o rosso sono i fiordalisi e i papaveri. Per l'occhio è uno spettacolo. In Umbria, vero? No, un momento, più Marche, non so se è già Umbria o ancora Marche. Castelluccio non è già. Questo qui è Farro, quando è verde ancora, e quando è maturo, a vedere questi campi enormi è uno spettacolo. Ma che belle le olive quando sono mature, eh? E qui è un'altra zona, di lassù, e sono stato là una volta, era spettacolare, non sarei più andato via. E questo qui cos'è? San Genesio. No, un'altra zona, più a sud delle montagne da quella parte. Tarassacco. Sì, il prato di Tarassacco. Sarà stati 4-5 mila metri quadrati, tutto così. Dove dentro la vena, vedi tutto questo giallo. Sì. A parte il giallo, poi io il Tarassacco a casa lo usiamo sempre da mangiare, regolarmente. Questa è un'altra cosa, questa per l'occhio. In tedesco si direbbe Augenweide, per esempio, un pascolo per gli occhi proprio, no? Questa è sulle montagne, tutta un'altra zona qui, sono nel Trentino, sulle montagne di là. Questo è un fiore di arnica e la farfalla sopra. Quando le persone cominceranno a vedere anche queste cose, si cambierà tutto il mondo. Finché questo non succederà, finché si vedranno solo i soldi, si vedrà la borsa, i giochi di borsa, le banche, investire, fare soldi, non ci sarà pace per l'umanità. Queste qui sono, qui ci sono dei pini mughi, vedo, dei ginepri, e dell'erica, e così in primavera, in marzo, quando fiorisce. Qui è sopra Bolzano, andando verso il Colle, il mese di maggio, quando sta le foglie di tutti i diversi colori che ci sono. Qua è sul Colle, nel momento giusto, quando l'erba è bella verde, l'ambiente si presenta così. E ci sta bene. Quindi ambiente naturale, e poi lo stile di vita dovrebbe essere adeguato anche questo. Questa qualche volta si trova anche questa qua. Questa è la digitale. La digitale è un bellissimo fiore, ci sono diverse specie, questa è quella principale, diciamo, molto velenosa, e gli estratti degli alcaloidi che contiene si utilizzano in piccolissime quantità per curare il cuore quando non funziona più regolarmente, no? Per rinforzarlo e per regolarizzarlo nella funzione. Chiaramente se si prende un pellettino in più di quantità si muore. A parte che se uno è fuori natura, anche problemi di cuore, dir si voglia, ci sono le erbe che aiutano, si potrebbe fare molto anche lì. Già con la respirazione si riesce a stabilizzare il cuore, si riesce a stabilizzare anche la pressione del sangue. È un'arte anche quella, basta saperci fare. Ci sono dei prati verdi, dei larici. Queste sono cose che oggi l'uomo moderno non ci fa più caso. Sapete cos'è sta roba qua? Io le mangiavo già da bambino, quando erano mature. Si fanno dei succhi, marmellate, niente, sono i frutti del corniolo. Questi sono i boschi, io ho avuto la possibilità almeno di vivere sempre in natura. Da bambino d'estate ero sempre in un paese di montagna, passavo lì il periodo della mia vita e ho visto un sacco di cose interessanti. E poi col tempo ho lavorato come ispettore forestale qua in Alto Adige, quindi mi pagavano per vivere fuori in natura, per andare a spasso, no? E io ho cominciato con gli anni, anche quando ho cominciato a capirla questa natura, come funziona, ho cominciato anche a abbracciare gli alberi. Dipendeva dalle specie e dalle necessità, no? Anche quella è una cosa molto interessante. Ogni tanto si vedono dei paesaggi molto interessanti, è vero? E ci fanno stare bene, ci fanno sognare e ci fanno stare meglio. Questo qui, quello che vedete dietro è il gruppo del Brenta, e qua siamo nella zona dove c'è il lago, nella zona della Persanella. Siccome era una bella giornata e i colori erano stupendi. Quindi qua i pensieri negativi spariscono tutti di colpo, è vero? Non ci vuole niente. Quindi vuol dire un altro sistema ormonale, ci vuol dire un altro metabolismo nel corpo umano. Qui abbiamo l'ipofisi e l'epifisi, che sono i maestri. L'ipofisi in modo particolare è la ghiandola maestro, quella che regola tutto il sistema ormonale. Se la persona è equilibrata funziona bene, se no comincia a sballare tutto l'organismo. Qui sotto abbiamo 6-7 ghiandole endocrine, comincia qua dalla tiroide, timo, c'è il pancreas anche che produce qualcosa lì, ghiandole surrenali, reni stessi, poi organi genitali, così via. E queste ghiandole poi sono collegate a quelli che nel mondo orientale chiamo i chakra, i centri di coscienza. Sono proprio messi questi centri di coscienza proprio nelle zone dove ci sono le ghiandole endocrine principali. È tutto un gioco ben coordinato, e se ci sappiamo ben fare possiamo vivere meglio. E una... quando matura, questo è bellissimo da vedere, questo è l'olivello spinoso. Il livello spinoso cresce, si ritrova qua di solito nella Val Venosta, cresce spontaneamente, no? E le bacche sono ricchissime in vitamina C, sostanze antiossidanti, tante cose che dicono al mondo moderno oggi, insomma, per far cure rinforzanti va benissimo. Qui siamo sulle montagne, paesaggi che si vedono qua e là. Questo è un torrente di montagna, l'acqua che viene giù dal ghiacciaio, quindi ha quel colore tutto particolare. E chiaramente non è niente di particolare come posto, però ci fa star bene. Lo stress se ne va via. Sapete cos'è lo stress? ogni tanto. Sì, ma cos'è lo stress? Lo stress è una cosa naturale. Nei primordi dell'umanità cos'era lo stress? Era una necessità per sopravvivere. Cioè, quando si vedeva, non so, un gruppo, una tigre che corre verso di te, il corpo, oppure un'altra persona a cui dovevi difenderti, in un attimo si riconosceva il pericolo e in un attimo ipofisi produce degli ormoni. Gli ormoni regolano tutto il nostro organismo, dipende da loro, tutta la nostra esistenza. E in un attimo dalla corteccia surrenale si produce adrenalina, noradrenalina, 4, 5, 6 ormoni che poi incarico altre parti del corpo a lavorare diversamente. Questo avviene in un attimo. Quello è lo stress naturale. Praticamente quando viene prodotta questi diversi ormoni, il sangue dalla parte interna dell'organismo, dall'apparato digerente, va verso la muscolatura, il cuore comincia a battere di più, la pressione sale e siamo pronti a reagire o a scappare. Questo è lo stress naturale, che poi, finito il pericolo, sparisce lo stress e quello va tutto bene, non succede niente. Anzi, fa bene perché... Quello che ci procuriamo. E quello moderno è tutta un'altra cosa. Quello moderno è lo stress dovuto a telefonino, computer, pensare, devo andare a pagare le tasse, devo andare a pagare il bollo, devo andare devo organizzare questo, devo parlare con quest'altro. Cioè, chi abbiamo quasi una vita da manager quasi, che devo continuare a organizzarsi, a pensare, a fare cose. E non c'è tregua, è una cosa continua. E questo crea stress artificiale. Non è una cosa che si sente, non è un pericolo a cui dobbiamo reagire, però per tante persone cosa succede? A forza di avere pensieri, fare, dovere, correre, organizzare, succede lo stesso come uno stressato. L'ipofisi produce questo ormone che fa produrre al ghiandolo surrenale adrenalina, noradrenalina, e siamo stressati. Non più di tanto, ma un po'. E noi non ce ne rendiamo conto, però il cuore batte di più, la pressione tende a salire, il sangue invece che essere nell'apparato digerente si trova più nella muscolatura, però non dobbiamo reagire a nessun pericolo. Allo stesso tempo il corpo produce, come si chiamano queste sostanze? Endorfine, sono ormoni come droghe che non ci fanno sentire il dolore. Il dolore nel senso, se devo difendermi, non so, da una tigre che mi vuole assalire, devo poter avere la forza per farlo, per difendermi, ok, però i muscoli sono così tirati che c'è dolore per quello che faccio, oppure devo difendermi, vengo ferito, non sento neanche il dolore. Sono tutte cose che la natura ha fatto automaticamente quando c'è un pericolo. Però in questo stress non naturale vengo sempre prodotto un po' di endorfine e non sento che sono in stress. E praticamente queste persone, anno dopo anno, è solo un esempio dei tanti questi, senza rendersene conto hanno la pressione più alta. L'apparato digerente, se c'è meno sangue, digerisce di meno, non lavora più così bene, quindi la digestione diventa pesante, non si digerisce più completamente, il metabolismo non funziona più bene. E una cosa tira l'altra, è un processo che va avanti. Questa è una viola odorosa, o viola mammola si chiama. La si trova vicino alle case vecchie, ai ruderi e così via, profuma molto. Già sentire il profumo di un fiore del genere rilassa. O il fiore della lavanda, basta annusarlo e poi la gente va a fare, che ne so io, terapia con i fiori di Bach, oppure altre cose, basta andare fuori e annusare i fiori. Basta. Trovo il fiore che mi attira, annuso questo e sto bene. Questa è la natura, questa è medicina naturale. Io la metto terra a terra per la vita di tutti i giorni, ma così funziona, senza rendersene conto. Questo è un torrente di alta montagna dell'acqua dei ghiacciai. Aveva appena piovuto, quindi c'è un po' di nebbiolina ancora. Queste sono rocce di granito, coperte dal muschio completamente. Questo è una... come si può chiamare? Centro di forza. Ci sono degli ambienti naturali, non deve essere delle cose grandi, piccoli ambienti che ci attirano immancabilmente. Quando la persona diventa più sensitiva, in questo punto di vista, si sente che certe zone mi piacciono e mi attirano e vado lì. potrei sedermi, gli sta lì a guardare e questo mi fa stare meglio. Praticamente c'è un'emanazione energetica che fuoriesce dal suolo, viene giù dal cielo, proprio in quella zona lì. Sono cose che si possono imparare volendo. Questo qui è successo verso il, come si chiama, il Catinaccio, in un bosco di abeti. Sta foto qua, stava piovendo a catinelle, c'era un temporale, ma pioveva forte, come i monsoni, una cosa spettacolare, e allo stesso tempo usciva il sole dalle nuvole. Qui la luce si spezza e allora si forma l'arcobaleno. E questo è davanti a casa mia d'estate, aveva piovuto, bellissimo, no? E dopo questo temporale quest'aria si ionizza, viene proprio voglia di respirare profondamente, però l'ossigeno è sempre quello, è soltanto, ci sono questi ioni che ci attraversano e ci fanno dire ah che bello, e è gratuito, eh? Ci sono anche gli apparecchi per ionizzare l'aria per gli uffici, per i locali chiusi, però quelli non funzionano così bene come in natura. Quelli bisogna pagarli, questo è gratis. Questo è il lago di Monticolo, per esempio, in autunno. Questa foto l'ho fatta, si era già abbastanza alzata già la nebbiolina dal lago, in autunno, e quando lavoravo così, e si vedevano le cose meravigliose. Silenzio, non c'è anima viva. Questo anche qua d'autunno, è uno spettacolo. Posso vedere anche queste cose qua. Ogni tanto succede. Rosso di sera, bel tempo si spera, si diceva una volta. Sì, aveva appena nevicato. Questa è la zona sopra la Mendola, da qualche parte fuori di là, verso il Rouen. Qua dietro casa, appena nevicato. Quindi abbiamo il paradiso in terra e alle volte devo dire non lo si vede. Ci si passa davanti e si spreca il tempo con tanti pensieri e necessità inutili che abbiamo. Abbiamo una pubblicità imperante che ci obbliga a vivere con un certo stile di vita, ci obbliga ad acquistare cose che non ci servono, quindi sprechiamo un sacco di tempo per cose inutili, invece di godersi la vita. Questo anche dove lavoravo, l'ho fatto sta foto, era la mattina presto, aveva nevicato da poco e c'era ancora la prima neve, il primo sole che arrivava. E la brina. Perché mi piaceva da matti gironzolare, siccome potevo farlo, allora magari era, sarà state le 7 di mattina d'inverno. Sì, questo è il crocco primaverile verso San Genesio, nel mese di inizio aprile. A quell'altitudine lì in aprile ci sono i prati pieni proprio. È uno spettacolo. Qui in montagna, il nevaio, qui la neve si sta sciogliendo d'estate. Ah, questa frase l'ho messa dentro. È leggibile? Mi piace questa cosetta qua. È il nome di un uccello, un uccellino piccolo. Non so quale sia, la traduzione non ce l'ho. So soltanto questo. Potrebbe essere il fringuello, potrebbe essere. Posso andare avanti? Sì, sì. Torrente d'acqua. E alle volte quando andavo con mia moglie e le bambine quando erano più piccole su in montagna, nel 2002, 2004, 2005 c'erano dei torrenti d'acqua, magari non era piuttosto in piano, quindi c'era sabbia dentro, sempre dentro nell'acqua. Più fredda che è, meglio è. Già vedere questa immagine, niente, soltanto l'acqua stagnante si muove appena appena, quei sassi tondi. Questa è armonia, o no? Non costa nulla, basta farci caso. Questo deve essere nelle zone di Merano, via lì, c'è una cascata molto interessante. Questo è l'iperico, un fiore per i nervi anche. Anche questo è un bel ambiente. Piante di acero e di faggio. E qui si vede come anche il ciclo dell'acqua è una cosa meravigliosa. La cosa meravigliosa, l'acqua scende dal cielo, filtra nel terreno, si purifica di nuovo e quindi la possiamo di nuovo bere, le piante l'assorbono, risale nel cielo oppure prosegue nei fiumi fino ad arrivare nel mare o negli oceani. Questo è un bel ambiente, non è qua nel Mediterraneo, è da un'altra parte. Sono belle spiagge, vero? Questo è anche un bel posto. Quando sono arrivato lì, lo scorso inverno, è spettacolare, la luce dell'aria è una cosa meravigliosa, indescrivibile. Il Messico. Questo è, sì, nella zona Tulum si chiama, un centro dei Maya, sono ancora delle costruzioni d'intorno e basta, è spettacolare, cioè non ci sono spiegazioni a descrivere il paradiso terrestre. Questo qua è un campo di grano. Di solito tante cose non ci si fa caso, no? Si corre, si vive la vita pensando ai propri problemi e ci si dimentica che si sta vivendo. Questo qui è un bel campo di farro sugli Appennini. La grande, quelle sono delle piante di quercia. E qui concludo con questo. Adesso parliamo un po' di cose che riguardano il tema di oggi. Questo è per la vostra coscienza. Ok. Allora, per vivere bene, cos'è che ci serve? Per stare bene? Allora, io parto dal presupposto ormai che per stare bene, benessere, ci vuole ben poco. Allora, la nostra eredità naturale è la salute. Salute della mente e del corpo. Quindi questa è una nostra eredità, è previsto per natura che il nostro corpo possa può farci fare questo viaggio che facciamo in questa vita che stiamo vivendo adesso, dall'inizio alla fine senza nessun problema, premesso che si seguono certi criteri. Allora cosa bisogna fare per stare bene? È molto semplice, nutrirsi naturalmente come previsto in natura, muoversi regolarmente. Non serve fare sport agonistico, anzi non è adatto, anzi fa male, a dire la verità, crea solo problemi, basta muoversi, camminare, in salita, in discesa, correre, saltare, per le donne di casa anche fare le pulizie di casa, quello è il meglio della salute. Praticamente chi pulisce le scale, scopa per terra, fa i letti, per capirci, si muove, starà sempre meglio di qualcuno che deve passare 7-8 ore in un ufficio seduto. E poi cosa serve? Muoversi regolarmente, respirare profondamente e ritmicamente, come è previsto in natura, quindi utilizzando tutta la capacità polmonare. Di solito chi vive in modo sedentario oppure il mondo moderno obbliga a respirare sempre più superficialmente e quella è una mancanza enorme che crea grossi problemi all'organismo. E poi vivere in un ambiente naturale incontaminato, se possibile, e avere pensieri positivi, una cosa assieme all'altra. Quindi l'ambiente di vita migliore è restare, muoversi all'aria aperta, lavorare, passeggiare, camminare, correre, respirare aria pura. Non costano nulla e aiutano molto. Siccome la scienza ha anche stabilito ormai che siamo proprio adatti a vivere nell'ambiente rurale, ci sono arrivati dopo 50 anni che la gente vive soltanto nelle città e tutti si stanno sempre più ammalando. Ma questo è un problema che sta venendo fuori pian piano, anzi sempre più in fretta. Allora, non avendo la possibilità di stare all'aria aperta, è bene fare regolarmente un po' di esercizio fisico, sia di resistenza aerobico che di forza anaerobico. Lo yoga e lo sport fatto con moderazione sarebbero molto indicati. Non serve esagerare, importanti sono la costanza e la regolarità. Adesso qui l'ho scritto, anche il lavoro di una casalinga è sicuramente più sano che trascorrere la giornata seduti in un ufficio davanti al PC. Bastano 30 minuti. Cosa? Noi abbiamo fatto quello e l'altro. Quello e l'altro, sì. Tutto il giorno davanti al PC e poi la casa anche. Sì. Bastano 30 minuti? Sì. È così. Bastano 30 minuti di moderato esercizio quotidiano. Il corpo umano è costruito in modo tale che ha bisogno di fare a piedi almeno 5-7 km al giorno. È il minimo che ci vuole. Altrimenti il metabolismo si riduce, la disintossicazione del corpo si riduce e gli organi non vengono più riattivati. Già oltre 5.000 anni or sono i cinesi avevano compreso l'importanza del movimento armonico per il libero flusso dell'energia e il suo influsso sull'organismo umano. Un esempio è per esempio il Tai Chi Chuan oppure Qigong, ne sono una prova. Ci posso fare anche tante altre cose. Quindi una camminata all'aperto, in raccoglimento e contemplazione della natura, immersi nella quiete, silenzio, intimità, pace, fa miracoli. Vedete, questo tipo di attività vince i nostri cupi pensieri e i nostri sentimenti più teteri e ci ricarica di energia. I vantaggi del movimento fisico sono essenziali per molti aspetti, che di solito non ci si pensa. Migliora il funzionamento dell'apparato cardiovascolare, migliora il funzionamento dell'apparato respiratorio. Se si respira meglio, cosa succede? Portiamo dentro più ossigeno. Se portiamo dentro più ossigeno, cosa succede? L'ossigeno gira per il sangue e viene utilizzato dal corpo in modo particolare, per esempio, per aiutare la disintossicazione dell'organismo. Per questo non ci sono soltanto le erbe e così via. Anche proprio con la respirazione si ottengono grossi vantaggi. È soltanto per fare un esempio, per capire fino a che punto può arrivare questo. Mantiene e sviluppa l'apparato osteoarticolare, i muscoli, i nervi, le cartilagini, le ossa, e sviluppa e altri processi metabolici vengono così favoriti. Ciò è reso possibile in modo particolare con la maggior produzione di vitamina D per mezzo della radiazione ultravioletta della luce solare. Vitamina D, 20 minuti, mezz'ora alla luce, e la quantità di vitamina D del corpo è già di nuovamente prodotta, abbiamo più che abbastanza. E poi c'è un'altra cosa interessante, che qui dentro non l'ho scritto, con la luce solare assorbiamo la radiazione del sole, che influisce anche sul nostro apparato riproduttivo. E il motivo principale perché le popolazioni che vivono al sud hanno la pelle più scura e chi vive al nord la pelle più chiara è proprio questo. La pelle si adatta, deve adattarsi alla radiazione solare, se è più intensa o meno intensa, quindi ci vuole quella protezione o meno protezione, quindi quella pigmentazione della pelle per permettere che entri soltanto quella determinata quantità di radiazione che permette il migliore sviluppo degli organi genitali maschili e femminili, ok? Della migliore funzionalità dell'apparato endocrino in questo senso qua e la possibilità di che funzioni meglio e che ci sia la migliore possibilità per riprodursi per l'essere umano. È tutto collegato, guarda, in natura non succede niente per caso, è tutto collegato fino ai minimi dettagli. Quindi un'altra cosa del movimento all'aria aperta, migliora il funzionamento del sistema linfatico e con esso la disintossicazione e tutto il sistema immunitario. Aiuta a mantenere costante il peso corporeo, ritarda l'invecchiamento, contribuisce al mantenimento del benessere psicologico riducendo ansia, depressione, solitudine e sensi di colpa. Il movimento all'aria aperta porta più ossigeno e altre sostanze nel corpo. Per capire quanto sia importante la respirazione facciamo questo esempio. È vero che il peso del cervello del corpo umano corrisponde al 2% del peso corporeo, ma ha bisogno del 40% dell'ossigeno che respiriamo. Quindi se andiamo all'aria aperta, ci muoviamo, respiriamo profondamente, profondamente bisogna saperlo fare anche, riusciamo a vedere meglio, a riflettere meglio, a pensare meglio e a decidere meglio. La respirazione è un'arte vera e propria. Noi dobbiamo sapere che se il respiro ritmico e profondo è eseguito in modo corretto, per esempio pranayama o altre tecniche del respiro, è il mezzo più efficace per assorbire coscientemente l'energia vitale presente intorno a noi. Cos'è l'energia vitale? Cos'è? L'energia vitale è quello che in Oriente chiamano prana, e è quell'energia che permette a quello che vediamo, alla materia di esistere. E noi abbiamo bisogno di questa energia per ricaricare le nostre batterie. Questo lo possiamo fare nutrendoci naturalmente, perché i nostri alimenti sono energia e luce, a questo di solito non ci pensiamo, buttiamo giù qualcosa e basta. Quindi più l'alimento è naturale, più rinvigorirà il nostro organismo, la nostra macchina funzionerà meglio perché è adatta a mangiare questo e non altro. Più che respiriamo profondamente, anche lì portiamo più energia. Le nostre batterie, le batterie dei nostri organi si ricaricano e funzionano meglio. Ok. Il respiro quindi è il portatore dell'energia vitale che riempie l'universo, e nel corso della storia dell'umanità gli furono dati molti nomi a questa energia. Diciamo solo energia adesso. Molti nomi quali? Prana, chi, spirito divino, forza vitale della natura, energia organica, energia bioplasmatica, man, numia, flusso vitale, grande spirito, il principio, la luce, l'amore, Dio e così via. Ci sono tanti nomi che gli sono stati dati e si tratta sempre della stessa cosa. Quindi tutto ciò è molto sano, ma non solo, è molto di più. È medicina per il corpo e per l'anima. Riscoprire la natura rende felici e più liberi, aiuta a togliere inutili preoccupazioni e dispiaceri, a riflettere con più chiarezza, e le decisioni assunte saranno più obiettive e riscopriremo la tolleranza. Indipendentemente da ciò, l'ambiente di vita è costituito anche dall'elemento paesaggistico. Se il paesaggio è armonioso, abbiamo una migliore qualità della vita e una notevole sensazione di benessere. Il paesaggio svolge un significativo effetto a livello nervoso e psicologico, con tutte le reazioni biochimiche e ormonali del caso, benché non sia notato e vissuto coscientemente dall'interessato. Ok, adesso vi ho raccontato qualcosa. Dai, avete delle domande in merito? Sarebbe bello poter vivere come dice lei, ma purtroppo non tutti siamo... No, basta come fare qualcosa. Basta, scusi. Se io sono panettiera, non posso andare nel bosco tutti i giorni. Era il suo lavoro che lo fa pensare così. Fortunato lei che lo può fare. Noi lo possiamo fare, almeno per i nostri impegni, solo casualmente. Ed solo casualmente. Per esempio io con mio marito, quando andavamo in montagna, invece che fare la strada, l'autostrada, facevamo la strada del vino. Perché ci dava più rilassante, esatto. Allora, ma perché eravamo in pensione, quando lavoravo nell'urbanificio che mi alzavo alle 4 alla mattina, non è che potevo andare nel corpo. Per cui quello che lei ci racconta è bellissimo, se si potesse fare, e lei lo racconta perché l'ha vissuto. Ma cavolo, bisogna fare tutti essere forestali, no. Almeno questo è il mio pensiero, no? Sarebbe bellissimo poter scegliere, ma delle volte non puoi scegliere. Ecco, quando andavamo in montagna invece che fare l'autostrada, potevo scegliere e facevo la strada del vino. Ma io non pensavo. Per cui questo che lei ci racconta per conto mio è molto bello, rilassante anche soltanto leggere di queste belle cose, però è a seconda della vita dove uno è nato. Per cui, sì, ma noi siamo i maestri della nostra vita, noi poi decidiamo cosa facciamo, no? Al lato pratico. Per cui io sono venuto a Bolzano che avevo 9 anni, sì, e ho vissuto in campagna, però i miei avevano sempre panificio, eccetera, per cui commercianti. A me piaceva moltissimo invece andare da una mia zia che loro facevano i contadini. Allora il latte appena munto, ed è stato il periodo più bello della mia vita. Quello è sicuro. Ma poi quando sono venuta qua ho cominciato ad andare a scuola alle Marcelline, il forno, non c'era tanto da... questo è tutto diverso. Forse se fossi stata là avrei continuato con l'agricoltura. Nonostante essere commerciante, forse per col cui tempo è bellissimo, sì, quello che lei ci ha detto, sì, e io una parte l'ho vissuto e ho proprio notato il cambiamento dopo la seconda guerra mondiale, che prima si viveva come il medioevo, per esempio a casa mia c'era la pompa, però quando andavo da questa mia zia c'era il pozzo e si andava a prendere il secchio d'acqua, si metteva in cucina e là c'era il mestolo e tu andavi per bene, e mi piaceva moltissimo, più che andare alla pompa, però non era il mio ambiente, là era mia zia che aveva certo questo lavoro, per cui sono tutte cose bellissime ed io ho notato proprio questo cambiamento venendo a Bolzano, non c'erano più queste cose, perché a Bolzano non è che avevo mia zia o... Sì, sì, sì. Era così. E quello che io mi ricordo, per esempio, è che quando lo dico certi non credono, c'erano 4-5 fratelli, avevano chi le mogli, chi no, però c'erano le sorelle. Allora, io con la mia cuginetta eravamo a tavola con gli uomini e le mogli erano sedute, mangiavano col piatto in mano e pronte a guardare se il marito, il fratello avevano bisogno. Quando io dico questo, ma non è possibile, è possibile, sì, sì, era così. Non a casa mia, per esempio, a casa mia no, anche la nostra donna di servizio, eccetera, eravamo tutti a tavola, non c'era, mio papà non è che aspettava che ci diamo qualcosa, no, prendersemo. Per cui questo cambia, e a me piaceva di più vivere da mia zia che a casa mia. Ogni epoca ha i suoi lati positivi e negativi, esatto, no? Per cui il periodo più bello è stato proprio fino ai 9 anni che ho potuto avere questo confronto, sì, sì, sì, commercio, sì, sì, e agricoltura. Io ero portata per l'agricoltura, però ero nata nel commercio e quindi ho dovuto continuare. Ok. Ci sono delle domande su cosa si può fare, non si può fare, su questo tema? Diciamo che siamo fortunati a vivere in una città piccola così, con tutto, sì, 10 minuti siamo, andiamo a camminare, andiamo, sì, abbiamo i giardini che sono bellissimi qua, io sono, sì, per esempio quando vado, solo se vai su per il padre, no? Fino a Castello, esatto, Polo, così è bellissimo, ti fai una bella Osvaldo, io quando vado a Sarentino, dalla mia consorcia, sì, che sì, metto, ci sono dei prati tenuti benissimo, sembrano tutto tappeti, e mi apre il cuore, queste cose mi piacciono, però non è che si può fare tutti i giorni. Li apprezzo di più però, andando poco. Certo, poco, certo. È vero, no? Bisogna disporsi anche verso la natura, le cose belle, diciamo, perché io, per esempio, quando vado verso il Conte Talvera, che vedo il catinaccio, lo vedo tutti i giorni, eppure dico sempre che bello. C'è gente che non lo vede. No, no, niente. Che non lo vede, per quello ci vuole un po' disporsi, sì, in un certo modo, penso, non lo so. Anche sul Talvera. Quando tu vai così uno è colà, forse. Sì. No, ma se sei libera di pensieri. perché finché lavoravo sono venuta in città, venivo sempre dagli uffici, non avevo mai visto niente. Io sono dell'UPA, l'Università della Terza Età, abbiamo fatto una ricerca sugli erche, io le vedevo per la prima volta, perché quando andavo in centro io dovevo correre, non avevo tempo di guardarmi io. Quando ho fatto la ricerca ho detto, ma guarda che bello, mai visto, e chissà, sarò passata da lì 100.000 volte. Ecco, la signora dice giusto, devi essere... Adesso invece che ho tempo, guardo tutte queste belle cose, adesso infatti, ho tempo. Infatti... Interessante, qua dentro ci ho messo quella riflessione, l'ho fatta anch'io, quei tempi. Come costruire le case, per esempio, no? Costruiamo anche le case e le città a misura d'uomo, così come la natura lascia crescere le piante, armoniosamente e non attraverso i grezzi dettami del profitto. Io praticamente cosa costruisco oggi? Oggi quadrate, sono comode così, dentro ci metti la persona e basta. Ci si potrebbe inventare anche di qualcos'altro. Lasciare un po' di spazio per un giardino, per un fiore, eccetera, ma adesso costa troppo caro. Oh, questo mondo ce lo siamo costruiti noi, giorno dopo giorno, adesso è quello che è. Che non mi piace niente, scusi. No? E poi, quel che ha detto lei prima, signora, niente, no? Io faccio caso a questa cosa, vedo lassù il catinaccio, altri non lo guardano neanche. Ma, non lo vedono, ma non a lato pratico, chi è più cieco? Di chi non vuol vedere, chi è più sordo di chi non vuol sentire? Io vi faccio una domanda. Chi vede di voi nel catinaccio il bambino che dorme? No, io vedo la ballerina. La ballerina è sul monte. Sì. Ma il catinaccio è un bambino di profilo che dorme. Io facevo la prima ragioneria, andavamo sul ponte e continuavano a dirmi le mie amiche. Vedi il bambino che dorme, il bambino, non dicevano che dorme. E io pensavo di vederlo, io non lo vedevo. Poi a un certo momento, e invece dorme, il profilo c'è, del bambino, il catinaccio. E io lo vedo sempre, però quando lo dicono, difficilmente lo stigmatizzano. E invece io da quella volta là sempre lo vedo. E anche la ballerina. E mi meraviglio che adesso ho 80 anni, qui ne avevo 14, non è cambiato niente, cioè vedi la ballerina, però non so se bisogna avere fantasia per vederla. Una riflessione, vi do una riflessione. Per esempio, ha detto ci vuole fantasia. Uno dei detti di Einstein, Albert Einstein, no? Era quello che aveva detto durante, quando era un anziano, ha detto... La fantasia è molto più importante di tutte le conoscenze scientifiche, ok? Se no non si va avanti, non ci si evolve. Posso leggere due righe ancora? Sì. Di una cosa, io sto scrivendo un altro libro, vorrei riuscire a arrivarci, solo un pezzettino. Siccome si parla ambiente e stile di vita, ho preso quello che riguarda un po' questa roba qua. Allora, puntini, puntini, puntini. Fin qui è tutto bello in ordine, ma le apparenze a volte ingannano. Se siamo onesti con noi stessi ci rendiamo conto che dietro l'attuale sovrabbondanza e un benessere materiale che non conosce confini e un materialismo molto radicato si nascondono molte zone d'ombra. Viviamo in un sistema estremamente complicato e specializzato, dove la catena di approvvigionamento di beni di consumo fondamentali è in mano a pochi ed è enormemente lunga e molto sensibile e delicata. E l'inquinamento ambientale a tutti i livelli sta aumentando in modo esponenziale. Ingiustizie sociali, diseguaglianze e sfruttamento della persona e del suo lavoro sono all'ordine del giorno. Sfruttamento del lavoro. Se invece ci fossero le macchine, i robot tutto quello che c'è, fanno per l'uomo. Tutto quello che c'è fatte per rendere la vita dell'essere umano più facile invece di specularci sopra e fare soldi. Già qui sarebbe risolti i nostri problemi. E poi quando muoiono non se ne portano dietro. No, nessuno. Li lasciano tutti qua. Quindi arrivano per fortuna almeno lì c'è giustizia. Sì. Allora, nel contempo, alle conseguenze di questo stile di vita, molti non vogliono neppure pensare e che benché vada, dicono che ci penseranno gli altri a far funzionare le cose. Quindi come sempre si delega le responsabilità agli altri, il politico, chi sia, quelli decideranno. E no, dipende da me. Finalmente, dopo decenni di letargo intellettuale, anche psicologi, biologi, antropologi, medici e neuroscienziati stanno ormai giungendo alla conclusione che siamo fatti per vivere nella natura. Quella vita rurale che un tempo costituiva le fondamenta della società umana e che fa ancora parte della nostra stessa natura. Fin dalle epoche più remote gli uomini vivevano così, seguendo i ritmi naturali, celebrando feste e riti in concomitanza con i cicli naturali delle stagioni, della luna e del sole, ma anche per stare assieme, per ringraziare la terra, la nostra madre primordiale, per ricordarci che esiste un mondo al quale tutti anelliamo, un mondo soprasensibile, spirituale, oltre quello materiale, quotidiano, che ci vuole tenere sempre più legati alla terra e alle cose in modo individuale. Qui c'è, ho messo questo detto anche, mi piacerebbe inserirlo, no? Negli anni 60, 70, 60 via lì, c'era questa canzone, là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Adriano Celentano. Allora, si vive in grandi palazzi e grattacieli sempre più alti, che assomigliano sempre di più a grandi dormitori, dove l'uomo diventa anonimo e si perde. Forse avremo bisogno di ideali più alti e non di edifici più alti. La città è come una grande giungla di ferro e cemento, molti rimangono tutto il giorno in locali chiusi con aria condizionata, che condiziona drasticamente l'uso dei loro polmoni, defraudandoli della capacità innata del respiro ritmico profondo, facendo sballare il sistema immunitario e tutto ciò che ne consegue. Il cervello verrà meno errorato dal sangue che fa nebbiare i pensieri e le nostre decisioni saranno meno limpide. Il sangue assorbirà meno ossigeno dai polmoni e il metabolismo e la purificazione del nostro organismo non saranno più ideali. E poi si dice che ci manca il fiato e ci sentiamo ansiosi e stanchi. Sono state costruite strade larghe per le macchine, ma non per gli uomini. Ci si sposta quasi sempre in automobili sempre più lussuose, sofisticate e tecnologiche, ma nonostante vengono costruite strade sempre più larghe, il traffico è sempre più congestionato, gli ingorghi sono all'ordine del giorno e presto non possiamo più viaggiare. La vita nelle città ci ha defraudato del quotidiano movimento naturale all'aria libera, riducendo il flusso linfatico, la disintossicazione e l'irrorazione sanguigna dei nostri organi, dei muscoli, del cuore, delle ossa e delle cartilagini, e poi diciamo che ci manca l'appetito, il nostro corpo è freddo, siamo spesso raffreddati e non abbiamo forza. Così frequentiamo i centri di fitness e le palestre come misura alternativa di ciò che la natura ci offre gratuitamente. Ci è stata tolta la possibilità di camminare e muoversi su un terreno morbido e irregolare, che è il migliore ammortizzatore naturale per mantenere ben funzionanti le nostre articolazioni, i tendini e la colonna vertebrale, e a conservare il senso dell'equilibrio, e poi ci lamentiamo perché ci vengono i calli, dobbiamo andare dal fisioterapista o a fare riflessologia plantare per poter stimolare le terminazioni nervose e tutto il nostro organismo. E qui proseguo, vado avanti, esatto. Pagine e pagine. Però io penso che questo che ci siamo creati comincia, secondo me, ad averci reso necessarie troppe cose che invece che non servono. Sono necessarie. Ma chi ha detto che io devo andare in ferie? Io non sono mai andata in ferie fin quando avevo il panico. Sì. E ho vissuto lo stesso. Ma adesso ci sono tutte queste necessità. Cose inutili. Ma che appunto che non servono. Ma fino agli anni 50 una famiglia standard, lasciamo che c'erano altri problemi allora, ma sì, questa non ha importanza. Come riflessione, un'entrata vive a tutta la famiglia. Certo. Adesso due non basta. Io dico per la stragrande maggioranza, poi c'è quel 10-15% che guadagna molto bene, no? E non c'ha problemi lo stesso. Questo è un altro discorso. Però la massa devono lavorare tutti e due, e questo è un assurdo. Perché ci abbiamo creato troppe esigenze. Lo so. Esatto. Posso andare avanti perché vedo questa cosa vi interessa. Esatto. No? Sono esigenze che abbiamo creato. Lo so. Paradiso e l'inferno non sono nell'aldilà, sono qua. Esatto. No? Allora, nelle città non esistono campi, prati e boschi dove per un po' di tempo possiamo lasciare dietro di noi i nostri problemi e dove i nostri figli possono giocare liberamente, sentire e conoscere la forza segreta della campagna, conoscere e toccare le piante, imparare a usarle, sentire il profumo dei fiori, conoscere gli animali e non averne timore. E poi ci lamentiamo se siamo depressi e che i nostri figli sono iperattivi e nervosi o magari linfatici e anemici. L'aria delle città è alle volte così sporca che non distinguiamo più bene il paesaggio e vediamo tutto sfocato e grigio. Vediamo un sole velato e le stelle e la luna non si riconoscono più e poi si dice che siamo irrequieti e depressi. Nelle città abbiamo perso la possibilità di vedere paesaggi lontani dove i nostri occhi possono ristorarsi assorbendo il colore verde delle piante, oppure reagire alle continue variazioni della profondità di campo e agli effetti dei giochi di luce ed ombra che stimola i nostri occhi guardando le foreste, le pianure, le montagne o il mare, dove potevamo concederci le pause per il corpo e l'anima perché necessarie al nostro benessere e poi ci lamentiamo perché non siamo rilassati e tranquilli e diventiamo miopi e i nostri occhi invecchiano rapidamente perdendo la loro lucentezza. Si va avanti così, certo. Sono tutte riflessioni a cui non ci si pensa, però adesso abbiamo la sanità, abbiamo le farmacie, abbiamo gli ospedali e aspettano solo che arriviamo lì, insomma, perché l'organismo più di tanto non tiene, prima o poi crolla. Devo andare avanti un pezzo ancora? Sì? Il ritmo, poi finisco, sì, è ora di finire. Allora, il ritmo di vita nelle città è frenetico e tanti uomini, senza rendersene conto, sono perennemente stressati e poi dicono che non dormono bene o hanno l'insonnia. Eppure un buon sonno è fondamentale per la rigenerazione del corpo e dell'anima e quello che conta non è la durata, bensì la sua qualità. Quando il sole scompare all'orizzonte, lasciando il posto all'oscurità, dopo una giornata di lavoro, sentiamo il bisogno istintivo di adagiarci e di godere del silenzio della notte e del sonno profondo e ristoratore per poi svegliarci il mattino seguente vispi, allegri e pieni di forze. Ma chi vive nelle metropoli è stato defraudato anche della gioia e della tranquillità interiore che la natura ci offre ininterrottamente, a costo zero, e vive in un mondo artificiale e spesso solo virtuale che gli crea altri bisogni artificiali che non riesce più a controllare. Devo andare avanti? Dite voi, sì o no? Andiamo al caffè. Eh? Sì. Volete sapere qualcosa del sonno, come funziona? Sì, questa proprio è interessante, molto, perché è così. Il naturale appagamento e la gioia di vivere gli è stata ampiamente tolta con questo stile di vita a seguito delle sue condizioni di lavoro e dei legami sociali che oggi dominano nelle grandi città. Per questo, spesso, senza rendersene conto, l'uomo cerca incessantemente una compensazione. Soprattutto gli è diventato difficile di arrivare ad avere un contatto diretto con la natura vivente che ci dona a costo zero la tranquillità interiore e la salute. Perciò cerca di riempire in un'altra maniera la sua vita emotiva e sentimentale. Per forza di cose utilizzerà le tarde ore serali e il tempo fino alla mezzanotte, o magari oltre. Luci artificiali di tutti i tipi lo aiutano a trasformare la notte in giorno e il caffè, l'alcol e alle volte le droghe fanno poi la loro parte per eccitare i suoi sensi e l'uomo, ormai succube, dimentica quale danno reca la sua salute psicofisica cercando di godersi la vita in questa maniera. In tal modo deruba il corpo e l'anima del vero sonno profondo durante le ore prima della mezzanotte, dove l'anima può viaggiare liberamente nel mondo astrale, comprendere il messaggio dei sogni e ritrovare il suo equilibrio. Inoltre l'organismo non sarà più in grado di portare a compimento la prevista depurazione e rielaborazione delle scorie del suo metabolismo come previsto dal suo orologio biologico. Durante il sonno il corpo inizia a espellere gli acidi che si sono formati durante la giornata lavorativa per produrre forza muscolare e calore, ora non servono più e devono essere eliminati. Anche per questo durante il sonno la respirazione e il metabolismo rallentano e le sostanze contenute nel cibo, le sostanze basiche in modo particolare, possono iniziare a fare il loro lavoro. In un certo qual modo il corpo viene ricaricato di energia, dopo che nel primo sonno profondo gli acidi e l'acido lattico accumulato sono stati trasformati in sostanze zuccherine che serviranno come nutrimento appena alzati al mattino. Si può quindi parlare di un vero e proprio flusso di sostanze basiche. Quando si alzerà al mattino si sentirà vitale, pieno di slancio e di iniziativa. Non sentirà il bisogno del caffè o del tè per stimolarsi. Chi è in grado di rispettare e seguire il ritmo del sonno naturale si sentirà più tranquillo ed equilibrato nel suo essere e nel suo agire e non conoscerà l'agitazione e l'eccitazione nervosa e non farà nemmeno conoscenza delle malattie nervose. Bellissimo. E avanti di questo seguito, prosegue. Bellissimo, ma si può sì? Realizzare, quello è il discorso. Sì, sì. Si può realizzare, si può realizzare quando hanno il lavoro e hanno la famiglia da mantenere, hanno tempo, sarebbe un sogno. Grazie a voi. Ok. E chi è interessato a leggere il mio libro è qua. Arrivederci, complimenti. Ciao, Non è neppure un patrimonio. Bello, questo? Sì. Alla prossima. Ciao, arrivederci. Buongiorno. Arrivederci, grazie. Ciao. Grazie tante signorina. Posso mettermi qua? Sì, sì, poi c'è pure. La conosce la passeggiata del Buncino? Certamente. Sì. È bellissima, vero? Con tutte le piante mediterranee, sì. Esotiche. Sì. È particolare, la maggior parte no? Le conosco. Sì. Sì. Una mia amica ha fatto un libro anche sulle sì. Piante sì. Del Buncino, no? Sì. Perché è particolare che sul Buncino, a Bolzano, in Alto Adige, ci siano certe piante. È logico, perché è asciutto, è protetto. Sì, sì, ci sono delle ci sono le rocce che riscaldano anche di più. E così. Non ce n'è più. Se ti interessa ti faccio delle gite per l'associazione turisti di Bolzano. Sì. Gite guide gite botaniche, sì, diversi sì, posti. Sì. Quello di domenica prossima verso il Rouen. Se ti interessa basta vedere l'associazione turistica di Bolzano. C'è il programma, c'era dentro, telefonare lì. E partono da Bolzano? Sì, da lì col furgone di loro. Ah, sì? Sì, sì. Ah, mi dà l'indirizzo esatto. Azienda di soggiorno e turismo Bolzano, basta chiamare lì. La prossima gita che gite botaniche. Le fa ancora quest'anno? Gite? Sì, sì, però sì. Quando sì. È la prossima? Che dove? La prossima è domenica. Ah, e dove? Fin sulla mendola? Ah, ho capito. In fondo, dopo la mendola dentro. Io ce l'ho già perché ne ho fatta una con lei, sì. Mi ha dato. Vedi, sì. Vedi. E poi da lì si va su verso sì. Marga di Romeno, okay, Ruense, sì, si arriva. Okay, lei vende il libro? Sì, sì. Questo è l'antico. Che lo prendo anche io. Volentieri. Copiare. Se vuoi la dedica, ma ti farà anche la dedica. Ah, 307000. Aspetta, sì. 00. Qui di Bolzano? Questo sì. No. Qui, mi, Piazza Valta. Mm-hmm. Le fa, sì. Le vuoi la dedica come a me? Me la fa anche. Vuoi? È nata, la vuoi? Ecco, andiamo. Insomma, quello che ho scritto lì, sì, sì. Io e mia moglie ce, sì, lo viviamo. L'ha fatta vedere la foto. Perché altrimenti non, sì, non vi può niente, non bisogna farle. Sì, per poterle anche scrivere, sì, bisogna farle. Cosa per dire? Adesso mi è venuto a voglia di fare due passi al Talvera che non faccio mai. Sì. Dopo questa relazione. Allora già. E poi respirare utilizzando sì, il diaframma qua. Sì, tante sì, le cosette. Sì. Sì. Ecco, ma è stato interessante, sì. Perché a volte magari. Si sanno cosa, ma si diventa pigri. Si diventa pigri. Poi comincia i pensieri oscuri, gira dentro lì, invece che buttarli via. Il viaggio della vita dovrebbe essere così. Io viaggio, godo il viaggio, guardo avanti, così non posso viaggiare guardando indietro. Chiudere baracca col passato. Sì, però non è proprio così semplice. So che non è semplice. Non ci faccio fatica a non dire. Un bagaglio anche. Non è semplicissimo. Bisogna provarci, è come un bambino che ha imparato a camminare, cade per terra ma si rialza, cade per terra si rialza, cade per terra si rialza, cade per terra, lo dimentica, ha messo tutto nel subconscio, però ci sono mesi che continua così. Poi ci sono periodi in cui si è armati anche di insegno, di buona volontà, si è più... Reagire, sempre quello. Ma non sempre si ha questo... Beh, posso dire una cosa mia personale senza annoiarvi? Torno dal Guncin, ero serena, sono la donna più serena del mondo, non ho problemi particolari, apprezzo quello che ho. Accendo la televisione, c'è questo cretino che ha ucciso i suoi figli incendiando la casa, no? Questo uomo cattivo che non ha neppure rispettato l'infanzia, l'innocenza. Mi è venuto un dolore, mi è venuto quasi da piangere, no? E questo dolore è ingestibile al momento, poi dopo e di questi episodi in questi giorni poi ce ne sono tantissimi, no? E io non vorrei dissociarmi dal mondo. Sì. Non leggendo i giornali, non aprendo la televisione, però... No, non bisogna staccarsi. Sì, non staccarsi. Però poi coinvolti lo stesso. Provare questo pensiero. Io mi sono messa nei panni di questa moglie, no? Sì. Che si è vista sottratta ai figli innocenti, bambini, poi io ho un culto dell'infanzia incredibile. E quando succede qualcosa ai bambini a me è un dolore cocente. Facciamo... Bisogna pensare forse in un altro modo qua. Sì, cioè, avere questo è il trucco, del trucco non diciamo, è la strategia. Dà troppa importanza a queste cose, fa parte del gioco della ma la vita. La mia, io sono troppo sensibile in queste cose, no? Quando sono coinvolte i bambini. Allora, dopo questo pensiero a portarsi dietro. Le reazioni sono diverse di ognuno di noi. No? Noi viviamo in questo mondo, ma non ci apparteniamo. Okay. Non ci apparteniamo. Viviamo in questo mondo, ma non ci apparteniamo. Non apparteniamo a noi o ci apparteniamo al mondo? Allora non noi viviamo, ma non ci apparteniamo. Sì. Non apparteniamo noi a questo mondo. Noi decidiamo della nostra vita, siamo noi maestri di vita. Sì. Non è il mondo che deve influenzarci. Ma non ci apparteniamo, non apparteniamo a noi? Noi qui siamo soltanto un momento. Un lampo. Siamo passeggeri. La vita è eterna, cioè ci aspetta qualcos'altro. Sì. La realtà è un'altra. Sì. Siamo di passaggio, insomma. Quindi non dobbiamo lasciarci sopraffare dai sentimenti, dalle emozioni, dai pensieri. Sì. Noi decidiamo. Sì. Guardare le cose per quello che sono. Più che il terzo occhio si apre, più si capisce le rapporti e interazioni che quindi ci sono. Quindi estraniarsi dal mondo. No, per niente, al contrario, viversi dentro. Coi piedi per terra, però la testa deve essere in cielo. I piedi ben piantati per terra. Io so quello che dico e so quello che faccio, però la guida è quella di lassù. Cioè nel senso di avere il senso della provvisorietà anche, no? Sì, su questa terra, no? Anche spiritualmente vivere parlando. Vivere la scuola della vita per quello che è, senza dare né troppo valore né troppo poco. Sì. L'equilibrio. Un equilibrio come sempre ci vorrebbe. Sì. Aspetta, si può vedere una moneta qua. 20, aspetta, cosa devo darle? 20? No, questi non sono miei. No, lo so, devo dare il ritorno. Sì, sì. 35, 20, 35. 35, 40. gli no. dà di più. 25, com'è? Quante no, delle... 15. Ah, quindi devo 20. Darne altri 10. Ah sì, 25, 20, 10, 20, però 20, non ce li ho. C'è, c'è qualcuno, non è qualcosa? 15, 20, 30. Cosa mi deve dare? 10 euro. Euro. Vedo, aspetti, 10. Ah, guarda, si può cambiare. Guarda, guarda che bello. Eccoci, risolto il problema. Da 100 o 10? Un da 10. Cioè, è lo stesso in questo caso. Ok, questo sì. E allora adesso 50 sì. E le do 20, 30, 5. Okay. Sì, a posto. Giusto? Sì. No. La ringrazio allora anche per aver avuto la dedica, per la sì. relazione, per i consigli, sì. i suggerimenti, le riflessioni che si fanno. Riflessioni. Sì. Così funziona. Per me ormai funziona così. Beata lei. No, no, no, no. Bisogna essere conseguenti. Sì, sì, provarci sì, almeno. E non si dimostra di essere. Provarci sempre. Sì, sì. Basta fare un po'. Sì, sì, alla volta. Se uno fa la sua piccola parte, non serve fare, non serve essere degli eroi. No, chiaramente. Però quel poco che te fai, almeno quello fallo bene. Convinto. Piatti, lavali bene. Bene, è logico. No, grazie. Arrivederci, buona giornata. No, per essere socio qui tutto. Della biblioteca. Per tirar fuori qua, sì. Che c'è. Arrivederci, salve. Buongiorno. Arrivederci. Prendiamo qui. Sì, e questo fare qui. Questa prima è vostra? Non lo so. Grazie, sì, sì, sì. Arrivederci, adesso il capo. Tutto. Allora, adesso togliamo il mobile qui. Altro posto che sto andando per qua. Sì. Grazie. Un favore, sia un bicchiere d'acqua. Lì c'è il banchetto che c'è da mangiare, da bere, quello che volete. C'è un bicchiere? Sì, ci sono dei bicchieri, prendete pure. Una cosa di acqua. La conosce anche il costa adesso? No, è sempre spesso sulla tua vita di un appassionato sì. della natura. Noi siamo custodi della natura, no? Gli uomini siamo dovrebbero essere custodi della natura. Si dice che l'essere umano è di più alto livello evolutivo, che è anche vero, però non ha a che fare essere meglio o peggio, la stessa cosa con un animale, con una pianta, con un sasso. No? Il problema è che devi saperne fare buon uso di questo, certo. Quindi occuparsi dei suoi fratelli minori, trattarli bene ed evolvere.